2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 26 giugno 2010, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale è 2024 e radio24.it. Potete scriverci per qualsiasi motivo, per proporci temi per le prossime puntate di 2024, ma anche per domande relative naturalmente ai temi della nostra trasmissione. Vi ricordo che anche questa puntata sarà disponibile attraverso il sistema, il servizio podcast di Radio 24, e quindi avrete la possibilità di scaricare anche in maniera automatica, ci sono software che permettono di scaricare anche in maniera automatica settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. File MP3 che sarà disponibile al massimo entro le 18.30 del sabato, quindi al massimo entro le 18.30, entro un'ora e mezza dalla fine della nostra trasmissione, questo grazie ai nostri tecnici, oggi grazie a Carmelo Lauricella. Alcune notizie della settimana prima dei nostri approfondimenti: procede lentamente il dibattito sulla progettazione e poi la costruzione in futuro di una nuova rete per l'accesso ad internet in Italia. Rete in fibra ottica che arrivi almeno nelle case, ma come dicono gli esperti addirittura negli appartamenti di tutti gli italiani. Questa settimana il vice ministro dello sviluppo economico con delega alle comunicazioni Paolo Romani, che attualmente non ha un ministro di riferimento, o meglio, il ministero è ad interim al Presidente del Consiglio, ma in questo ancora dopo molte settimane manca il ministro per lo sviluppo economico. Dicevo, comunque, Romani ha incontrato i principali operatori e un prossimo incontro è già stato fissato per il 15 luglio. Nessuna grande novità, degli indubbi vantaggi che la costruzione di una rete di prossima generazione in fibra ottica potrà dare al paese abbiamo parlato ampiamente anche la scorsa settimana. Questo è un tema di cui ci occupiamo spesso perché è un tema centrale, fondamentale per il futuro del nostro paese e anche per la competitività delle nostre imprese. Al momento la discussione è rallentata sia perché la politica ha altro a cui pensare purtroppo, ma anche dalle posizioni divergenti degli operatori alternativi e di quella di Telecom Italia, che di fronte alla prospettiva di costruire la rete assieme ad altre società e anche allo Stato, perché probabilmente una parte di denaro da investire sarà pubblico, beh, Telecom Italia può solo perdere un po' della posizione dominante di cui gode oggi. E quindi questo è sicuramente un tema di dibattito e un tema di scontro piuttosto forte. Questa settimana fanno nuovamente notizia sia l'iPhone che gli smartphone con sistema operativo Android. Da giovedì scorso, quindi da un paio di giorni, il nuovo smartphone di Apple, la versione numero 4 dell'iPhone, è in vendita negli Stati Uniti e anche in alcuni mercati europei, tra i quali non c'è l'Italia. In Italia arriverà a luglio, ancora una data precisa non c'è, ma bisognerà aspettare ancora un mesetto. Sembra che anche questa volta l'interesse del pubblico sia elevato, ma la Apple è, potremmo dire, scivolata su una buccia di banana, perché molti utenti si sono accorti che telefonando con il nuovo iPhone impugnato con la mano sinistra si copre l'antenna interna e la comunicazione cade. La cosa è vera, al punto che Steve Jobs ha risposto personalmente, ha replicato alle lamentele dicendo di usare la mano destra. Sembra incredibile, ma è così. Vedremo poi se il problema è reale e quindi non riguardi solo alcuni prodotti, e soprattutto se il problema sarà reale con le reti europee, che sono notoriamente più capillari e potenti rispetto a quelle degli Stati Uniti. Altre notizie, dicevo, riguardano Android, il sistema operativo di Google, che oggi è utilizzato da 60 tipi diversi di smartphone in tutto il mondo. La differenza fondamentale tra Android e il sistema operativo della Apple è che il sistema operativo dell'iPhone va solo e funziona solo su quel telefono, mentre Android è un sistema che viene installato su dispositivi diversi da molti produttori, quindi dice l'azienda sono 60 oramai i prodotti in tutto il mondo. Secondo Google ci sarebbero 160.000 nuovi utenti Android ogni giorno, quindi 169.000 nuovi telefoni al giorno venduti, il che conferma la crescita molto forte di questa piattaforma che da poco è tra l'altro disponibile anche nell'aggiornamento 2.2, quindi la nuovissima versione. L'ultimo nato con sistema operativo Android è negli Stati Uniti il nuovo Droid di Motorola. Motorola sta puntando molto su Android e molti dicono che questo sistema operativo potrà garantire una rinascita di questo nome storico della telefonia mobile che negli ultimi tempi ha perso molte quote di mercato. Mentre per il mercato italiano sarà nei negozi a giorni, la prossima settimana, il nuovo Galaxy S di Samsung, un telefono che ha raggiunto potremmo dire l'usabilità del touchscreen dell'iPhone con una brillantezza del nuovo schermo Super AMOLED con molte caratteristiche, una conferma che oramai Android è paragonabile a tutti gli effetti al sistema operativo di Apple. Aggiungiamo, e questo è sicuramente un dato che a noi interessa molto, ci fa molto piacere che nel Galaxy S, così come in altri prodotti, ma non come sull'iPhone, è disponibile la radio FM e questo ci fa molto piacere. Un'ultima notizia prima di presentarvi il nostro primo ospite, arriva da Bruxelles, perché la riunione dell'ICAN, l'ultima, si è tenuta a Bruxelles. L'ICAN è l'organismo che decide le regole di funzionamento della rete internet, che ha approvato la nascita del suffisso .xxx. Si attendeva da 10 anni circa, c'erano alcuni che lo attendevano da così tanto tempo. Questo è un dominio che identificherà su base volontaria le pagine web con contenuti pornografici. Il primo sito .xx sarà online all'inizio del 2011. Sarà interessante vedere se questo nuovo dominio sarà un successo come l'inossidabile.com, che ha compiuto 25 anni a marzo, conta, pensate, più di 80 milioni di siti registrati in tutto il mondo e rimane di gran lunga il dominio di primo livello più desiderato e più cliccato sulla rete internet. Molti altri domini, .info, .aero, .job, tante altre cose, non hanno avuto il successo del .com. Quindi diciamo che normalmente chi deve creare un sito internet prima di tutto lo crea con il suffisso della nazione, quindi per l'Italia.it, per la Francia.fr, per la Germania.de, il .com è punto insomma internazionale, dominio internazionale, ma gli altri creati recentemente non hanno avuto un grande successo. Vedremo se questo lo avrà. Certo che il business della pornografia online è colossale e molti dicono e sostengono se venissero obbligati tutti gli operatori del settore ad utilizzare questo dominio, questo porterebbe anche un vantaggio, ad esempio per i genitori che con appositi software volessero filtrare i contenuti vietati ai minori. Di questo parleremo perché è un tema molto molto importante. Questo è 2024, siete su Radio 24, adesso c'è una breve pausa, poi il nostro primo ospite. Oggi parleremo della nuova versione di Office, non ci sono solo novità che riguardano il pacchetto, ma nascono e nasceranno nuovi servizi anche online. Ci risentiamo tra circa un minuto. Come ricorderete, vi abbiamo promesso che ci saremmo occupati di Office, della nuova versione di questo programma per la produttività, forse uno dei pacchetti più famosi nel mondo dell'informatica, installato su, pensate, 1 miliardo di computer in tutto il mondo. Fabrizio Albergati è il direttore di un gruppo che si chiama Information Worker all'interno di Microsoft Italia. Bentornato 2024. Grazie, buongiorno a tutti. Partiamo proprio da questa tua qualifica nuova. Io faccio sempre, a volte scherzo, comunque faccio delle domande sui biglietti da visita degli ospiti di 2024. Che cosa significa Information Worker Group? La base è quella che oggi ci sono molte persone che lavorano con l'informazione come elemento essenziale per il loro lavoro, non necessariamente con un computer, non necessariamente i white collar, quindi quelli colletti che stanno bianchi. Esatto, davanti a un PC in un ufficio. Oggi l'informazione è l'elemento essenziale per portare a fondo i nostri obiettivi, per completare i nostri obiettivi. Il mondo information worker vuole proprio indirizzare i diversi utilizzi dell'informazione, dal palmare che usa il pilota per programmare una rotta allo smartphone, che ormai è diventato così comune per rimanere in contatto con l'azienda, il web come strumento di accesso alle proprie informazioni personali e aziendali e via discorrendo. Da pochi giorni è disponibile anche in Italia la nuova versione di Office 2010. Potremmo naturalmente chiacchierare per ore sulle novità che avete introdotto in questo nuovo pacchetto. Beh, diciamo, alla base ci sono sempre i programmi più famosi, quindi Word, Excel, Outlook, eccetera, eccetera. Certo, anche se per Office 2010 il messaggio che stiamo tentando di trasmettere è quello di un prodotto che non si ferma al desktop, infatti parliamo di Office System, perché ormai per migliorare la produttività sono indispensabili dei servizi di business, che sono poi quelli che possono essere gestiti e che utilizziamo tutti i giorni: la posta elettronica, la gestione dei documenti. Pensa che il 70% dei documenti aziendali siede nei singoli PC e non è condivisa. Ormai si lavora in gruppo, si lavora in team, questo non è più accettabile, perché rischiamo che, perché una persona manca dall'ufficio, quei dati non siano accessibili poi per completare un task. Ovviamente è sempre più importante per noi poi i prodotti che guardano al mondo della presenza e della comunicazione istantanea, quello che è il mondo di Unified Communication, per cui la possibilità di sapere quando sto facendo un messaggio di posta elettronica attraverso Outlook se il mio collega è in quel momento in ufficio, magari disponibile. Così invece magari di mandargli una mail, faccio partire un instant messaging, tre messaggi scambiati in instant messaging in 40 secondi, magari evitano 20 mail avanti e indietro. Sì, a volte ci sono dei lavoratori che non vogliono far sapere che si trovano in ufficio, ma tu hai ragione a dire che la tecnologia ci mette a disposizione delle possibilità che a volte non vengono utilizzate. Vorrei farti a proposito una domanda sul mercato italiano. Siamo, così come capita per altre cose nel mondo dell'informatica, un po' meno bravi nello sfruttare queste tecnologie in Italia? Ma il mercato italiano è afflitto da due problemi. Uno è la pirateria che ci affligge, di cui avete parlato molte volte, quindi non voglio ritornare sul tema. L'altro è proprio la sottopenetrazione, in particolar modo nel mondo della piccola impresa, proprio della tecnologia, di quella tecnologia che potrebbe aiutare i piccoli imprenditori magari ad essere più efficienti, più competitivi anche sullo scenario internazionale. Nell'utilizzo dei sistemi anche in questo siamo un pochino meno bravi di molti nostri omologhi europei. In particolare tendiamo a tenere i nostri sistemi in produzione per molti anni, e quindi questi sistemi, a differenza di un tornio che alla fine, anche qui probabilmente non è vero, ma se deve tornare un pezzo lo fa, e questi sistemi diventano vecchi, diventano vulnerabili, più attaccabili, oppure mancano di funzionalità importanti per renderci poi più efficaci. E devo dire che questa è una delle problematiche che tentiamo di indirizzare anche con delle politiche poi molto aggressive di pricing, proprio per Office 2010. A proposito di delle piccole, piccolissime imprese alle quali anche voi naturalmente siete interessati, per quale motivo secondo voi un piccolo che magari ha 1, 2, 3, 5 dipendenti dovrebbe acquistare un prodotto come Office, che ha certo una storia, ha un sistema attorno, ha un'assistenza dei partner vostri che producono per questo pacchetto, e magari non scegliere cose gratuite che si trovano sia in rete o comunque anche offline? Ma fondamentalmente perché oggi Office è uno dei prodotti più completi, dall'integrazione della posta elettronica, che non sempre è disponibile in altri prodotti, dalla semplicità d'uso, perché abbiamo introdotto recentemente una nuova interfaccia che utilizza dei nastri, proprio ribbon, che di fatto sono sensibili a quello che sto facendo. Quindi se sto lavorando su una tabella e faccio clic col mouse sulla tabella, non ho più solo la barrettina dei menu dove vado a cercare il comando, ma ho questo nastro che cambia e mi espone tutti i comandi che io posso utilizzare per lavorare sulla tabella. Quindi in questo modo l'utilizzo del PC, di Office, è passato da un 20 a un 70%, dando quindi la possibilità alla gente non solo di lavorare meglio, di essere più efficace, ma anche poi di avere una migliore soddisfazione nell'utilizzo dei sistemi. L'altra cosa, ed è la più importante, è che ormai avere Office da solo o avere un sistema da solo è limitativo. Dicevo che ci sono dei servizi di business che ormai sono indispensabili. Poter avere una posta elettronica che espone il mio nome e non un nome generico di un provider, piuttosto che non poter gestire i documenti dicendo che il mio listino prezzi, che pubblico verso l'esterno, senza dover mandare una mail con l'attachment a tutti, ma semplicemente puntando i miei clienti al listino che siede all'interno della mia infrastruttura, fanno sì che i nostri utenti possano avere dei grandi benefici. Il listino scade il 14 di maggio e dal 15 di maggio quel listino non si potrà più aprire, quindi eviterò tanti problemi. La cosa interessante, e ti lascio magari uno spunto, è che fino a ieri queste cose richiedevano grosse infrastrutture, server in casa ed erano disponibili solo per i grandi. Oggi con i servizi nella cloud anche Microsoft ha portato questi servizi alla portata di tutti. Pensa che con 89 euro all'anno io posso avere i servizi di posta elettronica, di gestione documentale, di messaggistica istantanea e di videoconferenza senza per ogni singolo dipendente, senza dover avere nulla in casa. Sì, senza avere i server. Poi di questo parliamo, perché sicuramente questa è una tendenza che anche voi state cercando di proporre alle piccole, soprattutto alle piccole, ma poi immagino che anche per le grandi aziende ci siano delle buone opportunità, quindi state anche voi comprando delle server farm gigantesche per offrire questi servizi, ma di questo parleremo tra poco. Un'altra cosa interessante e importante, l'abbiamo detto in parte anche prima, molti lavoratori hanno a disposizione software che possono fare tantissime cose, però vedo che pochi sono i lavoratori, poche sono le strutture che sfruttano appieno queste potenzialità. Che cosa si può fare e che cosa cercate di fare voi per educare i lavoratori verso queste novità? Allora, la prima è proprio quella di rendere più semplice accedere alle funzioni. Come ti dicevo, questa nuova interfaccia che ci espone tutti i comandi per fare l'edit di una fotografia, quando all'interno di Word facciamo clic sulla fotografia, ci aiuta sicuramente a lavorare meglio. L'altra sono tutta una serie di servizi di formazione che sono parzialmente residenti all'interno del pacchetto, ma sul sito poi office.com io posso accedere a tutta una serie di strumenti di formazione. Posso per esempio avere il confronto tra come facevo le cose con la mia vecchia versione di Office e come le devo fare con quella nuova. C'è addirittura un gioco che da noi è molto popolare che si chiama Ribbon Hero, per cui io devo rispondere a tutta una serie di domande di che cosa fanno certe cose del Ribbon, mi dà dei punteggi e ci sono delle sfide tra colleghi assolutamente assatanate su questo, ed è un modo divertente per imparare. Sì, questo è sicuramente importante, cioè sarebbe importante che le aziende capissero l'importanza, non tutte naturalmente non hanno capito, alcune lo hanno fatto, però vedo che la strada da percorrere è ancora lunga. Microsoft e in modo particolare Office negli ultimi anni ha visto affiancarsi altri servizi, alcuni online, alcuni offline, gratuiti. Ecco, di fronte a questo scenario che cambia, poi naturalmente si può dibattere su è meglio un prodotto piuttosto che un altro, ma la gratuità delle offerte sicuramente sono un elemento molto attrattivo. Che cosa state cercando di fare? Innanzitutto noi crediamo che il valore di Office sia più che provato nel momento in cui uno testa il prodotto e lo può testare gratuitamente, perché abbiamo sempre disponibili le trial che uno può testare, sperimentare prima di fare la scelta di acquistare il prodotto. Oltre al valore abbiamo scelto anche di affiancare una serie di prodotti gratuiti che offriamo al mercato. Nelle nuove macchine molti dei nostri partner che producono nuovi PC, gli OEM, hanno inserito quella che si chiama la versione starter di Office, che di fatto è una versione leggera di Word e di Excel, che permette quindi agli utenti che hanno un utilizzo molto light del prodotto di avere disponibile il prodotto gratuitamente. C'è un'altra offerta che in questo momento è aperta solo per coloro che hanno già comprato Office 2010, ma da settembre sarà disponibile per tutti, ed è quella delle Office Web Application. Di fatto sono Word, Excel, PowerPoint e OneNote, che è un sistema per prendere note molto intelligente, che vengono erogati attraverso il web direttamente sul browser di un qualunque PC dove non è necessario sia installato Office. In questo modo, anche in questo caso, con una serie di funzioni limitate rispetto al prodotto completo, però posso sia vedere dei documenti che mi sono inviati e che sono documenti ovviamente in formato Office, sia realizzare o rivedere dei documenti attraverso browser, è del tutto gratuitamente. Devo aver installato qualche cosa oppure nulla? In questo momento, come ti dicevo, il prodotto è disponibile in questa prima fase per gli utenti che hanno comprato Office 2010. A partire da settembre sarà sufficiente avere un Live ID, quindi se sono un utente Messenger o Hotmail già sono in condizione, vero? Sono una cosa gratuita, esatto. Sì, deve essere registrato, insomma. Esatto. Però accessibile da qualsiasi computer. Da qualsiasi computer, non solo ovviamente da Internet Explorer, ma anche da Safari e da Firefox, per parlare di browser. E la cosa interessante è che viene affiancato anche da un servizio che si chiama SkyDrive, che mi dà 25 giga di storage nella cloud, e quindi potrò mettere le mie foto, i miei documenti nella rete, accederli da qualunque PC purché abbia un browser compatibile. Quindi completamente web-based, come completamente web-based. E questo, prego. La cosa importante però è che anche in questo caso, se io sono un utente di Office professionale, quindi ho Office pieno installato sul mio PC, potrò magari iniziare a vedere il documento attraverso il web. Se mi rendo conto che ho necessità di fare quello che viene chiamato un deep editing o deep dive sul documento, quindi andare a fare delle cose un pochino più sofisticate di quello che offre normalmente l'interfaccia web, mi basterà premere letteralmente un click, editalo in Office, mi verrà aperto Office e il documento mi verrà trasferito all'interno della mia applicazione Office, e quindi potrò a questo punto fare tutto quello che Office mi permette di fare. La cosa importante è che se io ho delle cose che non posso fare all'interno delle Office Web Apps, quindi ti cito una tabella pivot che è una delle funzioni diciamo più sofisticate di Excel, non è che perdo quello che sto editando, semplicemente non potrò andare a cambiare quel particolare pezzo di spreadsheet di Excel, ma potrò lavorare sul resto. Però mantengo sani i miei dati, anche se poi li elaboro con questa versione meno potente del prodotto. Adesso ci fermiamo per qualche minuto, questo è 2024, poi riprendiamo e parliamo di cloud computing. Questo è un termine che gli esperti utilizzano già da molto tempo, ma per molti si tratta di una novità, anche di un termine poco conosciuto. Allora ripartiremo da qua tra poco su Radio 24. Seguiteci tutte le settimane nel pomeriggio del sabato di Radio 24. Questo è 2024, ci trovate anche online sul nostro sito internet www.radio24.it. Trovate tutte le nostre puntate in archivio, quindi potete riascoltarci quando volete, quando preferite. Un consiglio che vi diamo è quello di riascoltarci attraverso il servizio podcast, o meglio, di scaricare il file MP3 della nostra trasmissione con regolarità tutte le settimane, lo fanno ormai migliaia di nostri ascoltatori. In questo modo potete crearvi il vostro archivio sul vostro o computer oppure dispositivo portatile di file MP3, ad esempio. Insomma, ormai i dispositivi che leggono file MP3 sono tantissimi e i più vari. C'è anche chi con una chiavetta USB si ascolta la nostra puntata, magari a pezzetti, in automobile durante i viaggi di andata e ritorno dal lavoro. Trovate tutte le informazioni online sul nostro sito internet. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Io sono Enrico Paglierini, come sempre grazie anche ai nostri tecnici. Oggi c'è Carmelo Lauricella. Stiamo parlando della nuova versione di Office 2010. È arrivata e arriverà per tutti, abbiamo sentito, in autunno anche una versione online. Sapete che Google, attraverso i servizi che sono nati dopo la Gmail, ha creato la possibilità di scrivere ad esempio testi attraverso un servizio web, basato sul web. Anche Microsoft propone una soluzione di questo tipo, naturalmente col vantaggio di partire da una base installata di utenti che conoscono il mondo Office e di offrire anche un'estensione online di questi servizi. Tutto ciò si inserisce all'interno di una tendenza, di una novità tecnologica. Noi la chiamiamo novità tecnologica, anche se per gli esperti stiamo parlando di qualche cosa che esiste già da molto tempo. Si chiama cloud computing. Allora vorrei chiedere a Fabrizio Albergati di Microsoft, che è con noi oggi nel nostro studio, di spiegarci, di darci la loro versione, qual è la vostra versione di cloud computing? Il cloud computing è l'utilizzo di risorse che risiedono nel web e che io utilizzo in teoria senza sapere dove siano locate. Poi la nostra concezione è forse un pochino più vicina agli utenti business di oggi, per cui per esempio i nostri servizi nella cloud dichiariamo che sono erogati all'interno dell'Unione Europea in un data center che siede in Irlanda e un altro in Olanda, che lavorano completamente in fault tolerance, quindi dovesse succedere qualcosa a uno dei due data center, l'altro è in grado di mantenere il carico per tutta l'Europa. E questo ci permette anche di dare una certezza che certe normative europee vengano rispettate, perché in molti casi i nostri clienti hanno la necessità di mantenere i dati per problemi di privacy, di security, eccetera, all'interno dell'Unione Europea. Sì, questo effettivamente è un grande problema. Molti che si stanno avvicinando al concetto di cloud computing e quindi di dati che non risiedono più all'interno della propria azienda, sui propri server, ma risiedono chissà dove, come dicevamo prima, molti sono preoccupati della sicurezza, della privacy, ma chissà dove sono questi dati, molti si chiedono. È una preoccupazione forse un po' vecchia, nel mondo nuovo basato sulla rete forse una preoccupazione che andrebbe superata, però sicuramente esiste e va affrontata. Ci sono anche problemi di vuoti di normativa, infatti sì. Noi stiamo collaborando proprio a Bruxelles con l'Unione Europea per dare un chiaro quadro normativo intorno al mondo del cloud, e con noi molti altri operatori. È ancora una frontiera, siamo ancora un po' tutti pionieri, però la realtà è che oggi la nostra soluzione, ed è forse la cosa più innovativa della soluzione cloud di Microsoft, non è esclusiva. Io posso scegliere di avere una parte della mia infrastruttura in casa, se ho una dimensione adeguata per poterla gestire, una parte, per esempio una sede periferica, che viene gestita attraverso la cloud, e ho poi sistemi comunque di backup che mi permettono di avere la proprietà dei miei dati a livello locale. Quindi è ancora una soluzione che permette all'utente di scegliere il meglio delle varie opportunità secondo di quelle che sono le necessità. Può essere tutto nel cloud, può essere tutto in casa, oppure misto a piacere, sì, secondo le necessità. Diciamo che il risultato finale di questa tecnologia che sta cambiando le cose è che io posso avere un'azienda piccola o addirittura anche molto grande che non ha nessuna infrastruttura, cioè basta che io abbia dei computer collegati ad internet. Sì, anche se in questo caso molte delle grandi imprese hanno ovviamente infrastrutture che sono residenti e che non nasceranno nei prossimi mesi o nei prossimi anni. La realtà è che oggi, prima di tutto, posso avere queste soluzioni integralmente nella cloud. E cito grandi realtà, negli Stati Uniti McDonald's o la Shell, per fare due nomi, per fortuna non una BP, sono in questo momento integralmente sulla nostra offerta nella cloud, e parliamo di decine di migliaia di utenti. Quindi sono utenti che hanno un computer, sono collegati ad internet, e tutta l'infrastruttura che prima era dentro a sale raffreddate con ventole che funzionavano, insomma con hard disk, server costosissimi, non ci sono più. Non ci sono più, e non è caso che i posti dove stiamo andando a mettere i data center siano posti molto freddi, perché il costo più grosso di un data center è la dispersione termica, no? Cioè gestire la dispersione termica. Sì. Diciamo, questi data center non sono più nelle aziende, sono da voi. Sono da voi, molto più grandi, però sono ottimizzati perché poi riescono a bilanciare molto meglio il carico. La cosa bella è che queste architetture di tipo enterprise, che una volta erano disponibili solo per chi aveva qualche centinaio di migliaia di euro da investire in persone, macchine e tecnologia, con tutti i problemi di far lavorare la gente la domenica quando bisogna fare gli aggiornamenti, vi ricordo, oggi è disponibile anche per aziende piccolissime con dei costi che sono veramente minimi. E quindi sì, perché si va su abbonamento, diciamo. Sì, è un abbonamento annuale per persona. È veramente, ti ripeto, la suite intera costa meno di 100 euro all'anno. La miriade di partner che lavorano con voi e lavorano per le aziende, i vostri clienti, hanno compreso appieno, quindi diciamo, il sistema che si rivolge alle aziende anche in Italia, è pronto per il cloud computing o siamo ancora un po' indietro? È un percorso che non è certamente completato. Abbiamo molti partner che hanno già capito questo tipo di tecnologia. Per me Oggi il cloud computing rappresenta un po' quello che ha rappresentato personal computer quando è arrivato sul mercato. Molti dicevano: io quella roba lì non la guardo perché è per i bambini, ed è poi diventato il mainstream, no? Cioè l'elemento più importante. Quindi c'è un po' di scetticismo. Un po' di scetticismo c'è, anche perché richiede anche ai nostri partner un grande cambiamento. Oggi il 70-80% degli investimenti IT delle aziende è speso nel mantenere l'infrastruttura in piedi. E anche il ruolo dell'IT è sminuito da queste cose. Il ruolo dell'IT è essere innovativo, essere capace di portare innovazione in azienda, cambiare i processi, portare nuovi modi di lavorare. Il cloud computing permette finalmente all'IT di concentrarsi su quel lavoro di consulenza e di supporto al business e quindi di sviluppo della tecnologia che fino a ieri per forza non riusciva a fare perché obbligato a mantenere in piedi l'infrastruttura. Anche per i nostri partner è la stessa cosa. È la differenza tra lavorare di cacciavite per tenere in piedi un server o aiutare le aziende che collaborano con noi a costruire nuovi processi di business e nuovi modi di lavorare più efficienti e che danno maggiori risultati. Concludendo, possiamo quindi pensare che magari non la versione 2012-2014, però che ne so, 2020-2024 di Office sia tutta in the cloud, tutta web-based. Io credo che questo non avverrà, perché comunque ci sono situazioni, ci saranno sempre, in cui la connettività non è presente sempre e comunque. Quindi una libertà di scelta o una integrazione assoluta tra i servizi nel web e nei servizi quelli, diciamo, installati in loco, detti on-premise normalmente, è estremamente importante. E credo che comunque anche tra 10 anni avremo la necessità di avere dei sistemi che non sono connessi per problemi di sicurezza, per problemi di anche banale distanza da luoghi dove la connettività esiste. Per cui la possibilità di scelta credo sia l'elemento vincente. Sicuramente vedremo nel tempo sparire completamente la differenza tra ciò che è erogato nei data center locali rispetto a quello che è erogato nella cloud, e anche per Office nel prossimo futuro ci sarà un Office intero, completo, come quello che sta lo sul PC erogato attraverso internet. Credo che comunque ci sarà sempre la possibilità per chi lo desidera di utilizzare prodotti installati sul suo PC per tutti i problemi che avevamo detto prima. Bene, grazie a Fabrizio Albergati per essere stato con noi. Buon lavoro, a presto. Grazie, alla prossima. Oggi è 2024, parliamo di tecnologie wireless. Questo è un tema di cui ci occupiamo spesso 2024, ma parliamo anche di trasporti, di mezzi in movimento. Parleremo di automobili, mezzi di trasporto più grandi, potremmo definirli mezzi di trasporto collettivi, per disegnare alcuni scenari e per raccontarvi di alcune tecnologie che già esistono, si possono utilizzare, che ci fanno capire che cosa potrebbe succedere in 1, 2, 3 anni, insomma nei prossimi anni anche in Italia. Saluto Enrico Carlin, che è presidente di una società che si chiama iTech, che si occupa in modo particolare di tecnologie senza fili. Benvenuto a 2024. Grazie, buongiorno a tutti. Dicevo, voi vi occupate di tecnologie senza fili in senso lato. Lo scenario che vogliamo cominciare a dipingere, partendo poi anche da una soluzione che voi avete già costruito e che è già disponibile in Italia per alcuni particolari mezzi di trasporto, poi la raccontiamo e la descriviamo, è uno scenario che prevede che i mezzi di trasporto siano collegati ad internet, ma che siano collegati anche tra di loro, non o non solo attraverso la rete di telefonia mobile, cosa che in qualche modo già comincia ad accadere. Sappiamo, insomma, che ci sono alcune automobili che si possono connettere alla rete internet, ma invece lo scenario che voi guardate con attenzione qual è e su quale tecnologia si basa? Allora, diciamo che ci aspettiamo, sulla spinta di quello che sta succedendo ovviamente prima sempre negli Stati Uniti e poi nel resto del mondo, che così come oggi a livello abitazione siamo abituati a collegarci in maniera totalmente senza fili alla rete internet, questo avvenga anche a bordo dell'automobile, a bordo dei veicoli, a bordo di una barca, a bordo di uno yacht.

Grazie ad Anita Panizza in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Vi ricordo che la versione podcast, quindi il file MP3 della nostra trasmissione, sarà disponibile a breve sul sito internet di Radio 24. Cliccate naturalmente sul nostro programma, quindi 2024. Io sono Enrico Pagliarini, grazie per la vostra attenzione. Buon ascolto con i nostri programmi, noi ci risentiamo la prossima settimana. You are disconnected.